nur Adi bietet, Adi bietet, Adi bietet, Adi bietet, Adi bietet, Adi bietet, che comincia l'avventura, Adi mulatto di natura, Adi nato già con un colore, Adi che è distinto dal grigiore, Adi di chi massica giudizi, Adi bene o male pregiudizi, Adi armi proprie affilate, Adi che nascondono infamate, Adi che sorprendono con stupore, chi lo veste con amore, che cosa? Il colore, Adi, il colore, Adi, il colore, Adi, il colore, Adi, il colore, Adi, il colore, Adi, il colore, Adi, il colore bello, oh, di bello, il colore bello, oh, di bello, il colore bello, oh, di bello, il colore bello, oh, di bello, Io sono un umano. Non sembra vero? Mo' dicono tutti. Sono nato a Roma. Non sembra vero? Mo' dicono tutti. Il mio nome è Bashir. Io mi sono Bashir. Mo' dicono tutti. Figlio di padre somalo e di madre italiana, quindi è di padre nero e di madre bianca. Poi perché nero? Mio padre non era nero, me lo ricordo. Mio padre era marrone. E mia madre non era bianca, mia madre era rosa, come qui dire color carne, era rosa giallo, facciamo. Io questa cosa dei colori veramente io ancora non l'ho mai capita veramente bene esattamente. Ad esempio, diciamo che più o meno come idea qua, adesso vediamo un po' un attimo, mi sembra che, dammi la sala, mi sembra che siete tutti un po', maggior parte bianchi più o meno, no, vedo, no, pure c'è qualcuno marrone, qualcuno del colore mio, quindi insomma. Allora, a caso dei bianchi, ma voi siete veramente convinti di essere bianchi? Così? O magari qualcuno di voi addirittura è convinto di essere nero? Comatrice, così? È possibile, dai. Altri hanno detto addirittura che sono gialli. Come il limone, anzi, la centrata mi sembra. Altri addirittura le hanno convinti che hanno la pelle rossa. Io veramente vorrei vedere in faccia quello che ha deciso sti colori. Più che altro per capire che faccia avesse e soprattutto per capire di che colore è e che si è fumato, perché veramente ci fa una fantasia di battezzare tutti questi colori in questa maniera. Fatto sta che io mi dimentico di che colore sono. Io a giro per la città, così, tranquillo, rilassato, come se fossi trasparente, come l'acqua, il vetro, e così. Meno male che ogni tanto c'è qualche intelligentone che mi ricorda, oh, ma questo di che colore pensa adesso? Il fatto è che menti banali purtroppo producono domande banali. Però il razzismo non è una banalità, bensì un'idiozia. Qualcuno dice che io sarei mulatto. Come disse quell'intellettuale leghista, ah, mulatto, quel color merda che ha bevuto 3 litri di latte. Guarda, vada, ridi, dota. In realtà questa è un'etichetta, no? Come tante etichette, che non è neanche più accettata bene dagli stessi mulatti, perché la sua etimologia nasconde tutta una serie di trappole linguistiche non proprio simpatiche, e quindi alla fine mi sposto nella zona del sapere per spiegarvi l'etimologia di mulatto. Leggo. Mulatto, derivato dallo spagnolo mulato, di possibile derivazione da mulo, incrocio tra un cavallo e un somaro. Devo decidere tra mia madre e mia madre qual è il cavallo e il somaro. Poiché anch'esso, sottolineo anch'esso, ibrido. Quindi io sarei ibrido, come la Toyota Prius, come la Lexus, Ionis, Prius, Lexus, antica essa di nave, suona come stronzatas. Pare che la parola mulatto deriva anche dall'arabo mualla o mualla, per indicare uno che nasce da padre arabo, mio padre non era arabo come quello di tanti mulatti, e madre straniera, mia madre viveva qua, quindi non era straniera in quel caso lì, ovvero da padre schiavo e da madre libera. Madre libera, va, sì, mio padre schiavo, schiavo di forse di mia madre. Vabbè, se ne sentono di tutti i colori, comunque, di tutti i colori del caso di dirlo. Come sono pericolose queste etichette? Perché poi queste etichette in realtà nascondono un po' di ipocrisia, no? Tante categorie di persone nel tempo hanno cambiato nome per diventare politically correct, però in qualche maniera sono un po', capito, un po' così, capito? Ad esempio, in alcuni casi specifici lo posso capire, no? Magari uno, per esempio, il cieco, l'avete sentito tante volte, il cieco è diventato privopista, poi ipovedente, non mi ricordo bene, il sordo audioleso, non dente, oppure che ne so, negli anni 70 c'era tutti quanti che aveva un problema, c'era spastico, poi si diceva a un certo punto handicappato, poi a un certo punto disabile, poi diversamente abile. Quindi continuano a cambiare nomi. E lì, vabbè, si tratta di cose fisiche, ma anche negli impieghi. Avete sentito quante volte, no, che ne so, spazzino, scopino, netturbino, monnezzaro e mo operatore ecologico. O per esempio, che ne so, portiere o l'usciere, door manager. Mica, mica. A questo punto il nero ha detto, ah, io non sono nero, io sono nero di colore. Che poi bisogna capire di che colore, perché lì nero, marrone. Allora a questo punto io ho deciso una cosa. Io non sono mulatto, sono diversamente bianco. O diversamente nero, dipende dalla latitudine. C'è da dire pure quello, insomma. Se è diversa bianca, dipende da... Un'altra domandona che mi fanno. Perché me ne fanno tante. Senti, ma tu da che origine sei? Lo Ionis di origine umano animale nasce provincino, piazzale delle province, in terra età migra verso sud per diventare El Montagnolino, dove subirà influenze tormarancine, garba tedeschi e buon pianino. In tarda età si accoppia in quel di Tuscolana per procreare due splendidi esempi di piccoli gnocchi, voglio dire di piccole femmine. Attualmente in esilio a Corso Francia. Insomma, so di Roma, è che l'impatto fisico va immediatamente a stroticare paure al caire dei posti nei meandri della nostra coscienza, e nell'incontro ravvicinato il colore è un veloce esaltatore di diversità. Ho detto che il colore fa paura, il colore, ma che è sto colore? Io non ho che andare. Leggo. Allora, il colore. Alcuni scienziati asseriscono che la percezione del colore non è influenzata dalle differenze di colore, ma dall'illuminazione. Una volta un paio d'occhi, a seconda della giornata, deve essere più chiaro o più scuro, ma è molto colore. La spiegazione del fenomeno è intrigante. Il colore è un prodotto del nostro sistema nervoso, scrive uno dei ricercatori, e si potrebbe definire un pigmento della nostra immaginazione. Quindi, ma immaginazione nostra. Dal punto di vista letterario, Fernando Pessoa dice che ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo. Il che potrebbe diventare seriamente preoccupante per qualcuno magari. Ma sto colore, ma da quando è che cominciamo a percepirlo? Da subito oppure è una cosa che apprendiamo crescendo? Cioè, uno nasce senza nulla oppure, perché ultimamente ho letto anche che per esempio il DNA, se ci sono forti influenze culturali, poi alla fine dai e pure le cipolle diventano aglie e alla fine il DNA si modifica e quindi poi le cose vengono passate anche ai figli attraverso quello. Per esempio le mie figlie quando hanno cominciato a disegnare fanno la nostra famiglia, tutta bella, allegra, felice, noi quattro fanno la casa, il camino fumante, quindi voglio dire, tutto a posto. Allora, loro tre, mamma e due figlie, rosa, io marrone, una tavola di cioccolato. Leggo. Diversi studi di psicologia cognitivista affermano che il giudizio nei confronti del diverso da noi viene preso più dal linguaggio comune che dalla sola percezione visiva. Seguendo questa tesi si può sostenere che il razzismo cresce nel quotidiano laddove i comportamenti e i giudizi che il mondo adulto adotta tendono a rafforzare nei bambini stereotipi e pregiudizi. Ma allora le mie figlie, ma dove hanno preso questi elementi marroni? Io mi chiedo, a casa no, non so, forse fuori, a scuola, non so, per strada, qualcuno, perché... Fino a che ho capito forse qual è l'ultimo, è che una è nata a fine settembre 2002, quella è stata l'estate calda, e in effetti io ero molto abbronzato. E l'altra è nata a luglio, agosto, prima agosto, quindi arrivavo da luglio calabrese, era tutto bello nero, e forse anche in quel caso lì ero molto abbronzato, quindi appena loro escono fuori il primo imprint mi è rimasto. Quindi io ero molto abbronzato, ho scoperto qual era la mia vita, molto abbronzato. Questa è un'altra domanda. Ma perché? Ma pure voi abbronzate? Pure noi si abbronzavamo, mica siamo dei cocci. Quindi si abbronzano. Mio padre che era marrone, lo ricordo, e quando andava al mare d'estate diventava brunio violaceo, diventava. Poi pure se c'era tanta melanina, c'era la pelle delicata, quindi era costretto a mettersi la cremina protettiva, perché sennò gli veniva l'eritema o si bruciava. Invece mia madre, che era rosa giallo, c'era una pellaccia lì e rimbalzava tutto, lei prendeva tutto il sole, 75 anni di sole, c'aveva una ruga, zero. E l'unica cosa che c'era un po' una frustrazione, perché praticamente lei stava sempre sotto al sole, ma non era mai scura come noi figli. Quindi alla fine lei si piazzava allo stabilimento della Marinella Ostia, così, sotto al sole così, erano due figli un po' scuri, si piazzava allo stabilimento vicino sotto a ombrelloni. Almeno lei sa cosa mettere. Quindi si abbronzano tutti, marroni, bianchi, neri, gialli, tutti quanti si abbronzano, somali, italiani, italo-somali ovviamente, italo-somali, questa italo-somali. Allora un giorno io ho fatto un concerto, finisce questo concerto, scendo e incontro un amico molto simpatico, questa qui, che saluto, Riccardo. Ciao, come siamo, piacere, io sono italo-somalo, sì, anch'io, ma allora cominciamo a parlare di Somalia, ti racconti da quando sei andato te, cosa mangi, dove frequenti, chi conosci, italo-somali qua, però vedo che lui mi voleva dire a un certo punto qualcosa, che a un certo punto mi è uscita fuori, mi fa, guarda, però ti devo dire una cosa, tu non sei italo-somalo, tu sei somalo-italo. Anni mi ero visto con Italo Somalo a tutti. Somalo Italo. Quindi non bastavano i segni mentali tra la marrone e rosa giallo, poi tra noi mezzi e mezzi, Somalo Italo. Ah, perché mi spiega? Perché tuo padre è somalo, tu sei somalo italo, mentre mio padre è italiano, quindi è italo. Hai capito? Chi lo manda il padre? Allora, quindi, se lui è italo somalo, lui è euroafricano. Mentre io sono somalo italo, sono afro-europeo. Ma allora io mi chiedevo, scusa, ma se gli afroamericani sono marroni, gli afroamericani sono marroni, afroamericano, marroni. Io, afro-europeo originale, la punta dei capelli, perché sono rimasto, la punta delle scarpe, afro-caucaso, ma di che colore sono? Io, frequentandomi da parecchio con una certa assiduità, diciamo, un'idea me la sono fatta, un'idea sincera. Dopo un lungo lavoro su me stesso, qualche occhiata ossessiva allo specchio, qualche filmato, qualche foto, secondo me io, tono più, tono meno, sono fondamentalmente beige. Ormai desueta, ma sono un po' più abbronzato, comunque non è più bello. Era un'antica desueta, ormai sostituita da quelle più fashion, tipo khaki, safari, pantaloncino, mocassino, via di beige, beige. Quanto tempo è che non dite beige, che non vi comprate una cosa beige? Mi fate il favore una volta, diciamo una volta beige tutti insieme, perché mi piace. Al tre, uno, due, tre, beige! Senti, beige, si è riempita la sala, tutta beige, beige. Cioè, vi ricordate i pantaloni beige di gabbia, quelli a campana di vostro padre? Vi ricordate, no? Oppure, che ne so, il trench beige di nonno Ugo, vi ricordate? Il trench pro beige. Oppure la Fiat 850 beige del zio Alvaro. Quello è uno spettacolo. Proprio col cacciavite filato nel finestrino. Che rimaneva un po' aperto, quindi entrava l'acqua da lì un pochetto e andava dentro, si infilava sotto e si mangiava tutto il pianale dell'8,50. E siccome il signor Alvaro fumava tantissimo, alla fine la macchina si impregnava sempre più. E poi alla fine, quando noi la domenica andavamo tutti in macchina con il signor Alvaro per fare la scampagnata fuori porta, alla fine la macchina profumava proprio di quel tipico odore di Fiat 8,50. Va bene, quindi io sono fondamentalmente beige, con qualche sfumatura verdognola, giallognola alle tempie d'inverno, quando sono un po' sbattutello, però fondamentalmente beige, cioè né nero né bianco, né marrone né rosa giallo, né carne né pesce, né cotto né crudo, né niente, né tondo né grillo, insomma io sono nel mezzo. Ed in medio stat virtus. Stando in mezzo, marrone e rosa giallo, io potevo scegliere le qualità dell'uno e dell'altro, giusto? Se potevo, avrei potuto scegliere, per esempio i marroni, quelle fasce muscolari, quei muscolacci, quelli tosti, capito? Quelle sono tutte fibre bianche, come per assurdo, pensa, è incredibile. E sono quelle veloci, tipo che hanno quelli tipo, che ne so, Ben Johnson, quell'altro centometrista, quello forte, quello Bolt, Usain Bolt, e questi. E quindi io potevo avercene quella, no? Qualche bianco, cioè Mennea, Tilly, Borzo, chi sono io? A me? Niente. Un fascio di fibre rosse dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. Talmente lento so che una volta mentre giocavo a pallone uno da fuori campo mi ha detto: oh, mi pare in pratico con i ganasci. Pratico con i ganasci. Guarda che questa. Per esempio, e corde vocali. Corde vocali, e con le vocali potevo avere la fortuna di avere le corde vocali, per esempio, se esce fuori il filo, ve lo dico, prometto che ve lo dico, le corde vocali di grandi cantanti, di gospel, no? Belle corde vocali, quelle tirate, capito, che c'hanno un po', che le corde vocali tipo, che ne so, Otis Redding, sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ship roll in, and I'm watching the roadway again, sitting on a dock of the bay, watching the time roll away. I'm sitting on a dock of the bay, anche il fischio è diverso. lì e anche le mani, no? Tipo... vocali con vocali, che ne so, tipo di Lenny Kravitz. Il maestro. Hit the road, Jack. Why don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Why don't you come back no more, right shots. Oh, woman, don't treat me so mean. You're a man so old, but I've never seen. I guess if you say so, I have to think my back so good. That's right, hit the road, Jack. Why don't you come back no more, no more. Le corde vocali di Prince. Don't have to be. Rosa Giallo. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Io sono un italiano. Italiano nero. Oppure mi fa toccare le corde vocali di gelato al cioccolato, dolce o salato, gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, tu me l'hai fatto, gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, sono innamorato di un gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, io te l'ho rubato, gelato al cioccolato. Boh, capito? Che poi questa canzone l'ha scritta Malgioglio. E lo sapete a chi l'ha dedicata? Vabbè, devo spiegare la prossima volta. Poi, per carità, tutti i grandi artisti, per comunque chi ha avuto successo, io rispetto tutti. Qui non è una questione di artisti, è una questione di timbrica vocale, perché anch'io... Vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera. Hey, dimmi Wilson Buchanan. Hey, dimmi tu James Brown. Sai voce dove la trovate, signor King, signor Chuck, signor Brown.

Io mi sentivo attaccato, un po' trascurato, un po' aggredito, un po' vilipeso, un po' negretto. E mi sentivo diverso ovunque, diverso ovunque. E a proposito di diversità ovunque, vi voglio raccontare una storia. L'assassino. Il primo ministro sudafricano, Hendrik Verwoerd, fu l'inventore dell'apartheid. Il protagonista di questa vicenda, Dimitrios Tsafendas, di padre di origine greca, rosa giallo, di madre africana, marrone, quindi di colore beige, visse tutta la sua vita in Sudafrica e si sentì sempre fuori luogo, attaccato, anche lui. E questo anche a causa dell'apartheid che il primo ministro istituì in Sudafrica. A 40 anni Tsafendas, scambiato per bianco, fu assunto in Parlamento e lì progettò un piano. Esatto. Appena possibile, avvicinò il primo ministro il 6 settembre 1966 e lo uccide. Tsafendas non sarà mai un eroe, né per i bianchi né per i neri, perché nero per i bianchi e bianco per i neri. Covò rabbia per tutta la sua vita, per il fatto di essere diverso ovunque, e anche a causa dell'apartheid, secondo me, per la sua diversità. Perché è questo che poi terrorizza la maggior parte dei cittadini del pianeta. La paura della diversità. La paura del diverso. La diversità. Ma il dono della diversità. Si tende più facilmente a sottolineare una, che ne so, un'uguaglianza, una similianza, anziché l'imprevedibile diversità. E invece è fondamentale sottolineare le differenze della ricchezza insita nella propria unicità. Noi tutti siamo unici perché diversi. Leggo. Nel mondo non ci sono mai state due opinioni uguali, non più di quanto ci siano mai stati due capelli o due grani identici. La qualità universale è la diversità. Michel de Montaigne, filosofo scrittore del XVI secolo. Cioè noi non dobbiamo partire da un concetto dell'accettazione di diversità, ma bensì dalla volontà di voler affermare la propria diversità in maniera costruttiva. Noi, la unicità è la nostra principale risorsa, noi dobbiamo godercela questa unicità. Alti, bassi, magri, larghi, di destra, di sinistra, da Lazio, della Roma, musulmani, ebrei, verdi, gialli, qualunque cosa, godiamocela. Anzi, noi dobbiamo educare i nostri figli e instillare nei nostri figli il germe della diversità, in modo che quando crescono non puntino il dito contro il diverso. E tra l'altro mi viene in mente una storia di un ragazzo che ho visto crescere e lui si confrontava spesso con me per chiedere magari dei consigli, perché comunque ero più grande e magari non parlavo tanto con padre, quindi a me mi chiedeva delle cose. Un periodo non l'ho più visto, circa 20 anni, no, non l'ho più visto per 20 anni, cioè nel senso, aveva 20 anni e non l'ho visto per 6 mesi, forse più o meno. Un giorno arriva da me, con un'aria un po' baldanzosa, un po' fiera e nello stesso tempo con voglia di capire se l'accettavo così. Mi dice, ah sai, sta tutto bene, che sai che mi sono rifatto il naso, mi sono tolto la gobbetta. E io voglio, se ne hai bisogno, giusto che sia così, che dice ormai date la taratta. Poi dall'altra ha detto a me che io ho la gobbetta al naso. E lui dice, potrei essere uguale a chi? Ma non bravo, dico, c'ha la gobbetta con lui sul naso, ma insomma, ma non bravo, se la passa bene. O che ne so, Gerard Depardieu, la zona mia, da poco, pure. Bene, il maestro Gigi Proietti, c'ha un naso importante, tanto di cappello. Dante Alighieri. Che nasca, che Dio gli ha cresca, sembra una vasca, ma che c'è una pesca il giorno della Pasqua? Mettila la tasca se non te casca. Quindi capite, la questione è che la voglia di omologazione e la fuga dalla diversità non ci fanno mai sentire all'altezza di un'apparente normalità che di fatto non esiste. E lo specchio non restituisce certezze, sicurezze, ma solo paure. Leggo. Se avessimo tutti le stesse opinioni, non ci sarebbero le corse dei cavalli. George Bernard Shaw. Ancora, tutta la diversità umana è il prodotto della varietà quasi infinita della combinazione di geni. Noi tutti siamo formati dalla stessa polvere cromosomica. Nessuno di noi ne possiede un solo granello che possa rivendicare come suo. È il nostro insieme che ci appartiene e ci fa nostri. Noi siamo un mosaico originale di elementi banali. Jean Rostand, biologo del secolo scorso. Ancora, se non siamo in grado di porre fine alle differenze, alla fine non possiamo aiutare a rendere il mondo sicuro di tollerare questa parola, le diversità. John Kennedy. Arricchiamoci le nostre reciproche differenze, Paul Valéry. Sentite questa, mi piace molto questa immagine, che è un'immagine. Le radici non hanno da sprofondarsi nel buio atavico delle origini alla ricerca di una pretesa purezza. Si allargano in superficie come rami di una pianta, ad incontrare altre radici e a stringere come mani. Bella questa immagine. Diversità o meno, comunque io mi relazionai con tranquillità e serenità a quei bastardi vicini di vario colore. Lui la domanda mia recitera, ma se lì ero troppo chiaro e qui sono troppo scuro, ma dove dovrei andare a vivere io? Ma una vita normale. L'ho capito da grande. Ma certo, come no? Un po' potrebbe essere nei paesi arabi, Medio Oriente, Nord Africa, Centro, Sud America, come no? Marocco dicevano, mi parlavano chiaro, Younes, perché non io Younes, tutti dicevano Younes, però non capivo, ma questi strano pure se non ci parlavano, no? Non capisco, sono romano, che dove vai? Oppure magari dicevano, però non arabo, oppure quando sono stato a Cuba. Cuba dicevano, paese cubano, capito? Ammazza che figata, mandavo un giro per Cuba, capito? Tutti quanti dicevano, paese cubano, una cosa bellissima, quindi, per uno dell'est, ma quelli più chiari, da dove provengono i poliziotti? Sarà un complimento. Ma credo di sì, perché lo dicevano con una maniera tale che qui alla fine non poteva essere diversamente. Io mi sono lasciato trascinare da questi sapori, da questi odori, da questa dimensione veramente meravigliosa e ovviamente mi sono lasciato anche trascinare dalla loro musica, ovviamente, perché che fai? Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir yo quiero echar mis versos de palma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Bello andare in giro per la città senza che nessuno ti noti la tua presenza tra quattro stagioni, camminare tra la folla per caso, sentirti nessuno, senza che nessuna vecchietta il tuo passaggio si insacchi la borsa sotto la cella. Senza che nessuna signora al semaforo, sentite questo al semaforo. Roma, ore 12, giornata meravigliosa, giornata di sole. Aspettami sempre un altro microfono. Cristoforo Colombo, corsia centrale. Sabina strada, Cristoforo Colombo, corsia centrale. Allora, questa arriva con la macchina, una signora al semaforo. Dopo un po' arrivo io, la colfitta, quella macchina, bravo ragazzetto. La signora, attaccata al volante così, si gira. Prende. Mi ha dato soddisfazione, mi sono rimasto lì, parlo dell'occhio, guardate, hai capito? Mo? Sai che ti dico? Pericoloso, sono pericoloso questa volta, eh? Anzi qui ci vuole più sicurezza per tutti, ci vuole più sicurezza perché dobbiamo chiudere tutte le sicure, ci vuole più sicurezza, come diceva un efficace slogan politico, vince le elezioni, ci vuole la sicurezza, il pericolo immigrato, ma pericolo per chi? Per loro o per i... Come disse quell'esponente di una fazione, per dire insomma non proprio favorevole all'immigrazione, ma potremmo dire tranquillamente un pelino xenofobo, è vero? L'integrazione non è possibile. In effetti, però se l'integrazione è possibile, allora tutti gli italiani che ne seguono sono andati negli altri continenti, non si sono mai integrati allora. No. Quindi, se come dice lui, che gli immigrati di casa nostra, se devono tornare al loro paese, allora pure tutti gli italiani nel mondo, con tutto l'asse ereditario, se devono tornare al loro paese. A parte che questi italiani, lontano dall'Italia, hanno mantenuto tradizioni, usi e costumi molto saldi, molto più forti, quindi sono molto più italiani di noi. Quindi se tutti questi italiani se devono tornare al loro paese, a parte che non sapremo dove parcheggiarli perché sono milioni, ma poi noi saremo in grado di integrarci con loro. E loro in qualche maniera saranno tolleranti con noi, avranno tolleranza. A me sta parola questa. Tolleranza. Sa tolleranza sembra un po' una versione like dei sopportare, capito? Io non capisco perché quelli dicono, no, io non sono razzista, sono tollerante. Ma tollerante di che? Ma sai che significa tolleranza? Lo sapete? Lei? Tolleranza, senti bene, capacità fisica o spirituale di tollerare cose, situazioni e similari che possono essere dannose o spiacevoli. Tolleranza al freddo. Tolleranza dell'organismo a un farmaco, tolleranza a un clima sfavorevole. Oppure, atteggiamento di chi permette o accetta convinzioni politiche, religiose, etiche, eccetera, o comportamenti diversi dai propri. Dimostrazione di comprensione o indulgenza per gli errori o i difetti altrui. Ma, voglio dire una cosa, no? Ma che c'ha di dannoso spiacevole di colore di pelle diverso? Non lo so. Oppure addirittura dimostrazione di comprensione e indulgenza per gli errori altrui. È che uno deve, cioè perché c'ha il colore di pelle viene un errore o un difetto. Cioè uno può essere tollerante, per uno che gli rompe le scatole, tutto il giorno sta lì, però lo sai, quello c'ha un problema e quindi tu lo tolleri un po'. Ma non è che lo può essere uno perché solo perché c'ha il colore di pelle diversa, qua c'è quello, sta qui prima di te, quindi cioè non è che. E poi e comunque sia, magari quello sta qui, cioè tanti altri stanno qui e fanno, che ne so, fanno lavori che nessuno vuole più fare, che raccolgono pomodori, fanno badanti, raccolgono merda, oppure che ne so, pagano le pensioni dei nostri nonni, oppure arricchiscono la cultura, la razza, insomma. E poi andiamoci, no? Perché oggi a me, domani a te, il mondo gira, quindi attenzione a questa cosa. E a tal proposito vi voglio leggere un documento molto importante. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua. Molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra loro. Dicono che siano dediti al furto e se ostacolati, violenti. Le nostre donne lievitano, non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura attività criminali. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912. Perché lui è mulatto, però è una persona dolcissima. Pure un'altra persona mi ha detto, pure un'altra classica, no? Ma da uno, ammazza, ieri ho lavorato come un negro, poi ho detto una stronzata. Quindi la faccio. Ma poi dicono, quindi la volta dopo dicevo, ieri ho lavorato come un matto. Allora io stanno che praticamente per ovviare questa cosa qua, io dico, madonna mia, ieri ho lavorato come un bianco, sono sfondato. Oppure, che so, cena, situazione, capannello, no? Una volta si parlava spesso anche di quando c'era Marocchino, dice, no, perché si immigrati qua là, boom, non sta arrivando sopra sotto. E magari tutti presi, tutta gente che conosce, ma certo magari l'avventore non si è reso conto che ci stai pure di là. E quindi c'è un attimo, ci potrebbe essere un imbarazzo, invece lui comunque per andare avanti e per riprendersi, quindi per darmi una cavola come si a Roma, quindi mi dice una cosa che apparentemente sembra una cosa carina, ma in realtà è la cosa più razzista che uno mi possa dire, che mi viene da ridere veramente. Poi a un certo punto si va a faccia tutto, a me, ma che c'entra, ma tu mica sei di colore, tu sembri uno del sud. A parte che questo lo decido io se sono di colore o meno, poi comunque lo so, il 70% dei miei parenti, perché lì si fanno un sacco di figli. E infatti questo, se tu non lo spieghi a qualcuno, ce lo puoi spiegare, però non è che lo capisco, io l'ho spiegato a un amico, ma finché non gli è successa una cosa analoga. Per esempio, che stava, allora stavamo sempre a una cena, un po' di persone, un po' di amici, a un certo punto, questo qua sta lì, allora questo non lo fanno perché quelli del sud, questo faceva, questo raccontava, si parlava di quelli del sud. A un certo punto, questo mio amico, siciliano quelli proprio no doc di più, proprio con l'accento siciliano che proprio non potesse pensare altro, proprio siciliano, grigio siciliano proprio, capito? Con il capello nero corvino, occhio affumicato, proprio siciliano vero, nato a Vittoria, in provincia di Ragusa, quindi al sud proprio, vicino all'Africa, con il gattone, Mercedes Gattone, con la targa a Ragusa, con l'effigie dell'Africa, dipinta con la giamaicana, vicino alla targa, quindi proprio siciliano, certo, trapiantato a Firenze da circa 15 anni. E anche lui con il mio stesso destino. A un certo punto l'avventore si rende conto e fa, dice, ma che c'entra? Te mica sei del sud, e te sei di Firenze ormai. Ormai di Firenze. Cioè quello si dice, che cioè, non c'è dubbio, mi manca solo che da la guarda, perfetto, perfetto. E vabbè. Party, eat, party, eat. Si prosegue l'avventura, ogni in una terra non sicura, ogni dove il male è disegnato, ogni dal cervello limitato, ogni a questioni di interessi, pati, calcolati per se stessi, pati, dove quello che è straniero, fuori, è pericolo davvero, pari, per chi veste con onore, pari, la sua pelle con amore, di che colore, ori, ori, che colore, ad esempio nel lavoro nel lavoro qui la viene la dolente nota, visto che sono italiano, stra italiano, con forte tendenza anche romana, voleva qualche personaggio italiano, a parte pochi casi rari di qualcuno anche che sa che ha fatto la romano, se no ha tendenza generale, è sempre straniero, è sempre stato così. Volete sapere i nomi dei personaggi che ho recitato? Perché li sai? Malik, Pericles Hector, Farid, Farouk, Karim, Samir, Abdul, Aile, Pedro. Sembra l'orchestra di Piazza Vittoria. Meno male in questo turbilione esotico ho avuto l'ideona di caldeggiare il medico in famiglia di mio nome, Iones, perché al primo provino che io ho fatto si chiamava Abdul, al secondo provino si chiamava Haile, poi se potete questa cosa funziona, va bene, poi tutti quanti mi chiamano Haile Erneguse a Roma, capirai? Capito? Quello che chiamavano lì, però a me Erneguse mi aveva, non ne sarei più uscito io, insomma. E quindi alla fine Iones, quindi io ho sganato Iones. È stato nelle case che non si uguale mai, quindi ormai mi dicono, prima mi dicevano, io sa che nome strano, e invece tu una panfala oceano, e mi dicevano, non me lo chiede più nessuno, io non si uguale a Mario, tanto è vero, è talmente normale, di uso comune, che ci si chiamano anche i figli, ho contato tanti bambini che si chiamano Ionis, perché il nome è facile, piccolo, corto, portato, trascabile, facile da pronunciare, oddio facile da pronunciare, non sempre, devo dire, perché io non... Allora, ma lo chiamano in varie maniere. Allora, se partiamo da Dormaranci. Onasi! Jons, Iris, Iuris, Iuris, Iole, Ines, Inese, Odis come ascensori, Iaris come la macchina, Ignis come i frigoriferi, Naonis come la lavatrice, una vita da elettrodomestico. L'ultima in ordine di tempo, e Ionis, chiamatemi come vi pare, ma non mi chiamate Ionis che vedo un cazzo. Il primo è stato grande Rispoli, no, perché si era mischiato Ionis e Bashir, stava lì, ma Ionis, da quel giorno l'altro giorno stavo su internet, due giorni fa, su un coso di teatro, è uscito, io sono da vedere, fammi ne parlano dello spettacolo, scritto grande, Ionis SH sopra, poi c'era la foto mia, da invece, e sotto Ionis con la SC, cioè capito, se sono giocati con tutte le sci possibili, io non mi chiamo Ionis, io mi chiamo Ionis con la S finale, ma che devo fare un'altra serie di 10 anni per farlo, capito? Oles! E finale. Invece l'iniziale, quei due pazzerelloni, ma non è rosa gialla di mio padre e mia madre, hanno avuto la bella pensata di iniziare il mio nome con la Illunga. Oh, stai lunga, ma da cazzo? La Illunga. Cioè non si usa più da 200 avanti Cristo. E quando dico come iniziano con la Illunga, quelli scrivono Y di solito, che sarebbe poi la Y greca o la Y, per intenderci. Invece. Poi c'è qui invece Illunga, mio malgrado, a un certo punto per fare lo spelling ci ho avuto un'illuminazione su sulla via di Damasco, mio malgrado, anzi proprio in questo momento, illunga come Juventus. E quindi non si capiva, perché illunga ogni volta per spiegarlo. A un certo punto mi è venuta in aiuto, a un certo punto mia zia, niente professoressa, mia zia Norina, che mi ha detto, niente professoressa e preside, mi ha detto, guarda, io basta che guardi sul vocabolario, guardate. E io sono andato sul vocabolario. E vado a leggere. La illunga o J può essere vocale o consonante a seconda dell'utilizzo. Appunto, in ogni caso la questione non è risolta neanche sul dizionario. In caso mi chiama Jones, mi chiama Honis con la coda, ognuno ha. E poi come non bastasse, il mio nome presso al fianco a battute grossolane, di buon temponi dell'ultima ora, capito? Che proprio anche i comici non sono riusciti a esimersi da fare una battuta, pure ieri mi hanno fatto errate, e proprio non ci appanno proprio. Faccio un esempio, stai al ristorante, quanti sei? 5? Quanti siete? Ah, siamo 5, 10, ah siamo, ah, che sarà? Contiamoci, siamo 10 coglionis. Perché me coglionis? Siamo tutti coglioni. Asserisco da molto tempo che l'associazione tra preposizione articolata contratta co e il nome comune, ormai comune di persone, Ionis, è una cosa che è successa da appena sono nato, quindi ancora stavo appena sono nato. Stavamo lì, appena sono uscito fuori dal pancione di mamma, lo stesso che ha detto. Ecco Ionis! Tutti a ridere per terra, lo pure mia madre, cioè dava, se non trovava tutti a ridere. Tranne l'ostetrica che ha fatto questa battuta, l'inconsapevole battuta, è rimasta sempre, non ho detto. Una battuta però che ha accompagnato me e che ha condizionato anche la mia prole. Per esempio, io ho avuto due figli, ma se c'è un maschio, poi mi piacevano i nomi di quelli che finivano con co. Marco Ionis. Oppure Federico Ionis. Rocco Ionis, no? Francesco Ionis, per gli amici Checco Ionis. Quindi dice appena cognome ha cognome Ionis. Cognome Ionis. Dove state chiedendo? Ascolta, quanti cani facili del cognome? Invece mi chiamo Ionis di cognome. Avete mai sentito parlare di cognome patronimico? Cioè praticamente, vuol dire che prendi come cognome il nome di tuo padre. Birge è una cosa che vige in Russia, in tutti i paesi arabi, in una parte dell'Islanda, ma anche nell'antica Roma. Che io sto a posto, antica Roma. per esempio, no? Faccio un esempio. Mo adesso, come ti chiami tu? Viola. Lei si chiama Viola di cognome? Marano. Scusa. Tuo padre come si chiama? Giorgio. E il tuo nonno? Antonio. Viola, Giorgio, Antonio. È come se lei si chiamasse Viola, Giorgio, Antonio. Non è che poi fai i documenti, chiami Giorgio, Antonio, Viola, non si può fare. Devono essere in quest'ordine, perché sennò è un casino. Quindi nel mio caso, io mi chiamo Ionis, nome di battesimo. Muedin, nome di battesimo. Haji Bashir, mio nonno. Dove Haji Bashir, capito? Haji è un appellativo religioso. Quindi, come si chiama tuo nonno? Antonio, come se lui fosse cavaliere e tu ti chiamassi, tuo padre come si chiama? Viola, Giorgio, cavaliere, nonno? Antonio, cioè, e tu mettono nei documenti pure il cavaliere. Quindi già c'è un casino di documenti, mi ho trovato pure questa cosa qua. A un certo punto non ne potevo più, c'erano tutte le cose diverse, il congedo, la laurea, tutto diverso, non ne potevo più, basta, a un certo punto sono andato alla laurea, mi sono entrato dentro con un calaccio e dico, non ne posso più, basta! C'è uscita la signorina, senta, mi seguo, guarda, te la spiego io. Seguo questa, mi porta nella stanza, certificati di nascita, la stanza dei certificati di nascita. Venga, io la seguivo tutto, per dormire. Va lì, va a cercare il libro, 1960, andiamo a vedere, 17 settembre, ecco qua, allora, vediamo, sotto c'è scritto nome, poi sopra, nella parte alta, qui si usa a volte mettere il cognome davanti, il nome come Mario, poi sopra mette Rossi Mario, qui nessuno dice niente, qui è ovviamente il caso di Ionis, e quindi sopra lì sopra c'è scritto Ionis Modina Gibacir, e quindi era un peccato originale, capito? Adesso come facciamo? Quindi, guarda, io non ne posso più. Allora ho detto, guardi, le do un'opportunità. Scelga lei un cognome, così almeno firma un documento e lei da oggi in poi si chiama con quello che decide lei. Ah, l'occasione, a 33 anni mica da poco. C'è l'occasione di risorgere come qualcuno. A Pasqua risorgere a 33 anni. Capito? Che magari quello era un po' peggiorino. Vabbè, questo è un altro discorso. E quindi, l'occasione fatta. Allora ho detto, potrei che scelgo Ionis. Ionis, beh, in effetti è più semplice perché lo sanno tutti. Muedin è un po' più complicato. Agi Bashir, si chiama, però Agi Bashir è ancora più complicato. Ho detto, vabbè, un po' per narcisismo. Ho detto, facciamo una cosa. Ionis, dico, così almeno iniziamo anche la dinastia di Ionis, capito? Magari vi faccio pure un bello stemma araldico beige, Così iniziamo la dinastia, al momento ho fatto solo due femmine. E quindi ho detto, e contemporaneamente in agenzia stavano dicendo, in agenzia che mi rappresenta come attore, dicevano, ma sai, questo nome io lo rendo troppo complicato, contemporaneamente anche lì hanno deciso di chiamarmi Ionis e Bashir di cognome. Quindi mi sono ritrovato, ho sistemato un po' di cose, mi sono ritrovato un'altra volta nei casini. Tant'è vero che quando mi fanno una prenotazione per lavoro, che ne so, arrivo lì all'albergo, risultano tutti i nomi scegliati. Ma quando vado a prendere il volo, mi tocca andare 3 ore prima, vestito bene, con un bel sorriso, una scatola di cioccolatini, per l'hostess di turno, altrimenti non mi carica le mille niente. E devo dire che con Ionis, sentite come ho detto bene con Ionis, mi è andata bene, perché in realtà c'era pure la possibilità di chiamarmi Zaccaria, avrei avuto pure mia bella faccia. Cioè, qualcuno si chiama Zaccaria qui? No, un bel nome, mica, cioè, niente da dire. E mio padre, quando era appena nato, evidentemente aveva visitato la sala Michelangelo Pulisca, la Cappella Sistina, dove ci sono sopra tutti i profeti, e a capo tavola, da una parte c'è Zaccaria e dall'altra parte c'è Giona, che sarebbe io. Ionis sarebbe. E quindi è andata mia madre ha detto Ionis, e quindi Zaccaria qualunque era un nome carino, originale, insomma, sai, a Roma qua è un po' difficile, come cognome qualche anno fa sarebbe stato pure presidente della Rai, ma come nome a Roma, Zaccaria, una base grata, non più. Insomma, non lo so, ma comunque Zaccaria, insomma, sarebbe stato tosto anche pure quello da reggere, vedere. E comunque io sono sempre stato fiero della mia diversità, anche se la cultura, diciamo, dominante, cioè, ti dava un certo spaesamento, no? E anche i suoi sistemi di estromissione. E alla fine, diciamo, che questo sistema ti spinge verso 3 direzioni, 3 possibilità. O rompere, sovrastare, eccellere, educare. Oppure mimetizzarti. Oppure soccorrere. Io delle 3 devo dire che alla fine ho scelto la prima. Però capisco che ogni tanto alla seconda non puoi far finta di niente, perché comunque te ci devi rapportare alla seconda, assolutamente, perché poi alla fine quindi grazie a questo mio colore beige, insomma, per esempio nel lavoro io dico, comunque Louis Armstrong, Hamilton, ex campione di Formula 1, è beige, che ne so, comunque Barack Obama è beige, ma io posso fare un avvocato beige, un medico beige o un poliziotto beige senza spiegare le origini, un Mario Rossi beige. Oltretutto sarebbe anche un forte messaggio di integrazione. Ma poi integrazione di che? Ma io qua ci sono nato. Io sono cresciuto a pagliate cicore di passare a padella, mica che babba. Sono cresciuto, che ne so, a Briscole 37, a Romanella, che ne so, sono cresciuto a Bugadina Matriciana, sono cresciuto a Trirussa, Alberto Sordi, sono cresciuto a Petrolini. Gastone, sei del cinema il padrone, Gastone, oh, le donne a profusione. E ne faccio collezione, Gastone. Sono uscito Aldo da Prinzi, Lulù. Sei dei Prinzi tuoi mordaci, mi deridi e non mi baci, taci dunque, taci tu. Sì, del mio cuore fanne pure quel che vuoi, per non dirmi frizzi più, mordaci tuoi. Io sono cresciuto a Rondini, Malinconia, De Sole, a Baranici, penso a te, che non vuoi bene a me. Volevo nell'aria le parole, tanto fuori, ma sono quelle parole che non vuoi mai sapere. E la sincerità quando vi la quando tu mi guardi non ti voglio più sentire, piccolito, te voglio tanto bene, te voglio dire, te voglio tanto bene. Cantino Brescia, o anche per fare Ergiù, perché sa, ha fatto 109 milanese, non lo posso fare io per più, giustamente. Insomma, quindi alla fine quindi, tanti ruoli si possono fare, insomma, alla fine, se no alla fine. Poi ho capito a un certo punto perché io faccio sempre questi ruoli. Allora, voi fate un'interrogazione, voi andate, sai i casting, quelli che si occupano di cercare attori per i film, voi andate da un casting, andate lì, andate sul computer, database, mettete. Attore, moro, molto moro, esagerato, non mi basta, non mi basta. Alto, 1,86, peso 82, oh, ma i miei sui bianchi un po' pesanti. Poi, allora, capelli neri, stendiati, molto stendiati, esageriamo. Occhi neri, naso lungo B, denti bianchi con due otturazioni, barba cacio e pepe, testa 61, mazza e capoccia, collo 41. Spalle 52, mazze le spalle, pantalone 50, mutanda 34, niente male, scarpe 42, coscia interna 82, coscia esterna 112, ammazza che stacco, un chiodo di cane qua, due pezzi di metallo qua, un crociato qua, ammazza come si è messo male, petto 105, dita spero lunga 93, bacino 100, mani belle, piedi brutti, una puzzi, 8,50, tintè del 78, parcheggiata qua fuori. Invio. Che non abbiamo accettato. Niente. Fino a quando non metti la parola magica. Arabo o sudamericano? Ma perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché un giorno io ho chiesto perché. Una regista mi ha detto, guarda, vai a fare un provino. Sono andato a questa casinca, cioè abbiamo un ottimo rapporto, una persona dolcissima, ho fatto tante cose belle, per carità. Cioè, sai, devo fare questo provino come medico, 40 anni, me l'ha detto la regista, e io vado là. E dice, guarda, io non mi spiace, ci conosciamo tanti anni, ma io non te lo posso fare il provino. Perché? Perché? Cioè, perché noi lavoriamo per stereotipi, e tu sei uno stereotipo, ma non italiano. E che stereotipo sono? Quindi io ho detto, anche perché poi, tra l'altro, gli arabi, stanno venendo gli arabi, vedi, fai qua. Quindi parlano altro. Dove gli anni vengono, dove gli anni vedi? Ah, bene, gli italiani rimasti, e che faccio? E si mette a lavorare, mi tocca venire a pizzeria a taglio. Che potrebbe essere pure una bella idea di essere una bella pizzeria a taglio? Anche perché i pizzettari, la maggior parte quelli cagliati sono tutti belgi. Pure il cappuccino che la pizzettaria visto qua, belgi. Potrebbe essere una buona idea, oppure potremmo fare una serie sui pizzettari e io faccio pure basta. Questa volta non c'è si vede. Oppure la vita di Carlo Monti, che è proprio sicuro che posso parlare con lui di vita grande. In realtà, perché a volte, quanto le esigenze di sceniche, le esigenze di copione, le esigenze anche dell'immaginario collettivo, travalicano proprio la verità storica, anche ignoranza spesso, no? Per esempio, Agostino Ippona, lo conoscete? No, non è un grande fratello. No, non è un attore. No, non è il benzinaio, ma che senti? No, non è un amico, no, non è questo. Allora, prego. Aurelius Agostinus Ipponensis. Scusate, un permesso. Giro pace. Nato il 13 novembre 354 a Tagaste, cioè Algeria. Morto il 28 agosto 430 a Ippona, cioè Algeria. Un'altra città. Morto a 76 anni, per l'epoca niente male. Fu un filosofo, vescovo e teologo latino, padre dottore, è detto anche dottor Grazia, è stato il massimo pensatore del cristiano del primo millennio, certamente anche uno dei più grandi geni dell'umanità in assoluto, dice qualche libro. Agostino, di etnia berbera, ma di cultura totalmente ellenistico romana, nacque in Algeria. Africano di nascita, e quindi di madrelingua berbera, apprese e utilizzò il punico ed il latino, mentre ebbe difficoltà con il greco. Poveraccio, quindi da sempre brutti voti a scuola, da baracca da professoressa Vanaglia, non si quella nascosa. Infatti, orgoglioso del successo del proprio figlio, nelle scuole di Tagaste e Madaura, in pratica, decise di mandarlo a Cartagine. Che faccio, lo mandi a studiare a Cartagine? Cioè Tunisia, Africa, per prepararlo alla carriera forense. Ma ci vollero molti mesi a raccogliere il denaro necessario. Ed Agostino passò il suo 16° anno a Tagaste in un ozio in cui si scatenò una grande crisi intellettuale e morale. Egli stesso avrebbe in seguito narrato come dominato da una profonda inquietudine, venisse risucchiato da un vortice pazzesco di passioni, un vortice pazzesco di passioni, e provasse quasi attrazione per il peccato, come avvenne ad esempio in occasione del celebre furto delle pere, che Agostino organizzò insieme ad alcuni coetanei. Ma io, sciagurato, cosa mai in te, o furto mio, o delitto notturno dei miei 16 anni, non eri bello per un furto, no? Anzi, eri qualcosa per cui possa rivolgerti la parola. Belli erano i frutti che rubavo, ma non quelli che provò la mia anima miserabile, perché ne avevo in abbondanza di migliori. Eppure colsi proprio quelli al solo scopo di commettere un furto. Di chi stiamo parlando? Di quel santo che la Chiesa Cattolica fece santo. Sant'Agostino, africano di nascita, di etnia berbera, madrelingua berbera, studiato a Tagaste e Madaura a Cartagine, ladro di bere. Ma di che colore è? Beh, a un certo punto uno va alla serie, e qui, beh, io me l'ho già preparato per tutto un pomodoro, vai, non si è fatto un momento, vai, molto andiamo. Ero messo a leggere tutto quanto preparato, poi io mi metto lì, ho letto le lettere di Sant'Agostino, che sono sempre interessantissime, anche le confessioni, erano proprio fantastico, proprio ho letto tutto quanto. Poi ho detto, cultura ellenistico-romana, quindi non parla romano, quindi parlerà aulico, quindi mi sono messo anche a studiare, fare un po' di dizione, mi sono preparato come i doppiatori, che hanno la bocca, mi scioglie, quindi do di là lì, perché mica mi faranno parlare come un medico in famiglia. Capito che lì era un amico mio che ha aperto il fatto che vi do la munizione, io ho detto il nome del padre di me. Non posso credere che mi fanno una cosa così, no? Non è possibile. Quindi ero proprio pronto, capito? Ero messo pure per andare, non giro così per casa, via, non mi sembrava un matto. Quindi stavo lì pronto, capito? Il borsaio, lì da fronte al telefono. Mo' sono. Sai chi ha telefonato il telefono? A chi ha suonato il telefono? Alessandro Preziosi. Che è del sud, insomma. Non è tanto invece, anzi, c'ha pure gli occhi che un po', insomma, di uno l'occhio azzurro li potremmo quasi osare. E da grande l'ha fatto sapere chi? Franco Nero, che De Scuro c'ha solo il cognome. Cioè, ma dammi un'occhiata a uno che vede quella nuanza, ma almeno mi incontro, non è che dico tanto, no? Vediamo, quindi adesso sdoganiamo un Sant'Agostino biondo con gli occhi azzurri, come già un altro predicatore ebreo, che risulta a 33 anni, che si girava dalle parti della provincia della Giudea, e lo fanno i carciofi buoni, e pure lui, che era beciolino, l'hanno sdoganato biondo con gli occhi azzurri. Quindi poi, alla fine, non ci rendiamo conto quanto è grave questo, perché? Perché attraverso quello che dice la televisione diventa un documento, perché poi nell'immaginario collettivo, ora anche il cinema, l'immaginario collettivo, quelli ormai sono sdoganati così. Chi me lo spiega che Sant'Agostino era prece? Cioè, no, tutti biondi con gli occhi azzurri. Cioè, quindi abbiamo cambiato proprio la storia. E a proposito di storia, c'è una cosa interessante che ho scoperto poco tempo fa, che mi fa piacere condividere con voi, perché è una curiosità molto strana. Allora, vi parlo di Giorgio Manicola. Giorgio Manicola è stato medaglia d'oro al valor militare. È morto a 23 anni, giovanissimo, per difendere la sua patria, l'Italia, ucciso dai tedeschi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Giorgio Marincola, di padre italiano e madre somala, un partigiano belga, medaglia d'oro al valore militare. Quindi non lo sa quasi nessuno. E io ho letto questa cosa su un interessante libro che vi consiglio, che si chiama Razza Partigiana, e di Costa Teodonio, dove ci sono un sacco di cose molto interessanti, tra cui alcune che ora vi leggo. Allora, il giornalista Nello Aiello, che in un articolo passava in rassegna gli studi su Agostino Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha osservato: nel fascicolo Gemelli, depositato all'archivio centrale dello Stato, si trovano informative nelle quali gli agenti della polizia politica formulano su di lui pesanti riserve. In una nota del 4 febbraio 1932 si accenna a una conferenza di Gemelli sul problema laziale e il mediciano, nel corso del quale un celebre religioso dà, tra virgolette, pienamente ragione ai provvedimenti del governo nell'interesse della razza bianca. Quindi, se vi sentite poco bene, se sono un po' scuri, non andate all'ospedale Gemelli, che è quello principale. Oppure quest'altra, ancora più interessante: tra la documentazione riportata nel recente lavoro di Umberto Gentiloni Silveri e Maddalena Carli sui bombardamenti su Roma, si trova una comunicazione che gli autori definiscono a ragione imbarazzante, inviata al Foreign Office da rappresentante in Vaticano nel gennaio del 1944, in cui si legge che il Papa Pio XII spera che non ci siano truppe alleate di colore tra i gruppi che potrebbero essere posti di stanza a Roma dopo l'occupazione. Si è affrettato ad aggiungere che la Santa Sede non ha fissato un limite alla gamma dei colori, ma spera che questa sua richiesta possa essere accettata. È tutto vero. Gamma dei colori. Gamma di colore. Ma a questo punto a me mi viene una domanda spontanea, perché questa domanda ci sta. Anzi, non è una domanda qualunque. Questa è la domanda. Ma Dio, se esiste, e ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, ma Dio, ma di che colore è? Sperando che uno abbia capito qualche cosina. cose rapporto col colore, con la diversità, con il rapporto con gli altri. Posso dire una cosa? Con certezza, con sicurezza. Accetto chi m'accetta. Chi non m'accetta dovrebbe essere accettato. Ma con l'accetta. E la pizzeria taglio.